Dopo il crollo del PIL del 2009, nel 2010 la Germania ha effettuato un rimbalzo statistico formidabile, soprattutto delle esportazioni e degli investimenti, e tuttavia già la Bundesbank nel fine anno scorso cominciava a dire che l'export non avrebbe più potuto dare nel 2011 un supporto fondamentale alla crescita, che invece sarebbe stata maggiormente sostenuta dalla domanda interna, dagli investimenti e dai consumi. Ecco, su questo punto io ho sempre avuto molte perplessità, perché non riesco francamente a capire, non riuscivo e non riesco tuttora francamente a capire come sia possibile che un paese come la Germania, che ha avuto una domanda interna addirittura più debole di quella italiana negli ultimi 10 anni, avrebbe potuto fare poi un exploit così forte nel 2011 proprio con la domanda interna. Gli investimenti delle imprese sono andati forte, ma i consumi delle famiglie evidentemente non hanno seguito, e forse gli stessi investimenti delle imprese hanno rallentato anch'essi nel secondo trimestre. Cosa si può dire, raffrontando il dato tedesco ai dati invece di altre zone dell'Europa? Ad esempio stamattina c'è stato il dato spagnolo, ma anche a quello italiano. Ma una delle cose più curiose di questo secondo trimestre, che è stato il trimestre in cui l'Italia ha cominciato a essere messa in croce per la sua bassa crescita, è che l'Italia ha avuto la crescita congiunturale più forte degli altri paesi maggiori in Europa, perché abbiamo fatto un più 0,3. Abbiamo visto l'Inghilterra fare un più 0,2 molto modesto dopo che c'era stata una crescita zero per due trimestri consecutivi, abbiamo visto la Spagna fare più 0,2, la Francia addirittura crescita zero, la Germania più 0,1, quindi paradossalmente mentre le agenzie di rating e i mercati mettevano in croce l'Italia perché cresceva poco e quindi avrebbe avuto difficoltà a ridurre il proprio debito pubblico, si stava manifestando un rallentamento globale di ben maggiori proporzioni in altri paesi. Gli stessi Stati Uniti, ricordo, hanno fatto un più 0,3 e hanno rivisto al ribasso da più 0,5 a più 0,1 la crescita del primo trimestre, che era stata nettamente sopravvalutata. Può essere sufficiente a consolarci? No, direi che è una rondine che non fa primavera, nel senso che l'Italia non è che risolve con questo primato occasionale i suoi problemi strutturali, tuttavia dimostra che la crescita facile non è più alla portata di nessuno, e venendo meno tra l'altro i sostegni artificiali alle economie, e ricordo il quantitative easing in America piuttosto che non gli incentivi ai consumi che sono stati fatti in tantissimi paesi, ricordo gli stessi deficit pubblici che sono imponenti in paesi come Francia, Inghilterra, Stati Uniti, ecco, questi paesi non hanno nemmeno ancora cominciato a fare l'austerità che l'Italia invece ha dovuto diciamo così infliggersi, anche perché pressata dai mercati, dal contesto internazionale, quindi figuriamoci cosa potrebbe succedere nel momento in cui anche questi paesi cominceranno a fare austerità.